oscuro pianeta. Dopo un viaggio interminabile siamo finalmente atterrati su questo lontanissimo pianeta, pronti a compiere la nostra missione di salvataggio. I segnali di emergenza trasmessici erano di un'intensità quasi inquietante, ma qui tutto sembra in ordine. I nostri primi accertamenti confermano che non c'è alcuna catastrofe naturale imminente. La copertura climatica e la circolazione atmosferica sono stabili, nonostante un recente aumento dei livelli di radioattività. Vi sono indizi di una lenta erosione della base ecologica, che però è ancora più che adeguata a supportare forme di vita. Il controllo aereo delle centinaia di città che occupano i continenti più importanti suggerisce che la popolazione del pianeta conta diversi miliardi di abitanti, anche se nessuno di loro è venuto a darci il benvenuto. È probabile che stiano ancora cercando riparo dal disastro che ha rischiato di cancellarli dalla faccia del pianeta. Siamo entrati in molte delle città e le abbiamo trovate deserte, ma non c'è traccia dei grandi rifugi sotterranei necessari a ospitare una popolazione così numerosa. Resta la possibilità che gli abitanti, in preda alla disperazione, siano fuggiti nello spazio, temendo che la loro richiesta di aiuto non fosse stata colta da nessuno. D'altro canto, il modesto livello della loro tecnologia aerospaziale sembra escludere tale ipotesi, e restiamo convinti che siano ancora nascosti da qualche parte. In un tentativo di rassicurarli, stiamo utilizzando i dispositivi radiotelevisivi locali e abbiamo mandato in onda un segnale di saluto e di amicizia. Sorprendentemente, per tutta risposta, la vasta rete di computer del pianeta si è riattivata emettendo un improvviso segnale di allarme, come se fosse abituata a diffidare di queste volenterose dichiarazioni di intenti. Abbiamo scoperto che il sistema di computer è perfettamente funzionante. Ampie sezioni di detto sistema, in particolare le funzioni predittive e cognitive, si sono autogenerate nel passato recente, mentre le reti informatiche sembrano essersi mobilitate autonomamente per far fronte al disastro imminente. Le nostre indagini confermano che questa minaccia era strettamente collegata a una data importante nel calendario del pianeta, rappresentata dalla notazione ore 24 31 dicembre 1999. Evidentemente tale data segnava la fine di due epoche di grande importanza e al contempo l'inizio di un nuovo millennio. Sembra ora accertato che il nostro arrivo sia coinciso quasi esattamente con questo momento fatidico, che è stato percepito dalle reti di computer come una scadenza decisiva e disperata al tempo stesso. L'intero sistema di computer del pianeta è ancora in uno stato di estremo fermento, registrando una recente reazione globale a un pericolo estremo. Al momento, tra i raccordi satellitari scorre solo un numero limitato di segnali, ma vi sono giganteschi archivi informatici con una capacità di gran lunga superiore alle necessità del sistema. Queste banche dati sono ora piene, custodite da codici complessi che non siamo stati in grado di decifrare, e sono forse la cassaforte e il deposito di tutta la conoscenza ancestrale del pianeta. Le difese previste nell'ambito del sistema sono così impressionanti che siamo ormai convinti siano stati proprio questi computer ad autorizzare la trasmissione del segnale di allarme con il quale siamo stati chiamati a salvare il loro mondo. Ancora non si vede traccia degli abitanti e non c'è stata risposta al nostro saluto tele e radiotrasmesso. Le città, i loro sobborghi, gli aeroporti e le autostrade restano deserti. Nel frattempo stiamo conducendo un'indagine su questi popoli, su sul loro sistema di valori e sulle rispettive virtù civiche, e ci siamo imbattuti in un sorprendente numero di paradossi. È chiaro che le loro capacità tecnologiche e scientifiche sono molto avanzate, se hanno consentito di costruire le vaste città che dominano la superficie del pianeta. Hanno già utilizzato l'energia atomica, hanno decifrato i codici molecolari che presiedono alla loro stessa riproduzione e sembrano sulla buona strada verso l'eliminazione di tutte le malattie e la soluzione dei misteri della vita e dell'immortalità. Allo stesso tempo, le nostre ricerche hanno dimostrato che, nonostante tutti questi risultati, godere nell'infliggere dolore e violenza è per loro naturale, quasi quanto l'aria che respirano. Soprattutto la guerra è il loro divertimento più popolare. Nazioni teoricamente in stato di pace destinano una larga parte del loro prodotto interno per costruire arsenali di armi letali e soddisfano gli appetiti delle loro popolazioni con un repertorio di divertimenti brutali nei quali la violenza, l'umiliazione e l'omicidio sono i soli ingredienti. Le nostre ricerche più recenti hanno confermato che la minaccia imminente della quale i loro computer ci avevano avvisato era in effetti rappresentata proprio dall'esistenza di questi popoli. Erano loro stessi a rappresentare il pericolo che è andato a un passo dal distruggere il loro pianeta. Ed è stato per salvare loro che le reti dei computer ci hanno chiamati dal lato opposto dell'universo. La scadenza stabilita dai computer, l'ora cruciale in cui un millennio lasciava il posto al suo successore, spiega forse le ragioni del loro allarme. Vista la sete di violenza di questi popoli, è possibile che abbiano considerato il nuovo millennio un'occasione per un carnevale di distruzione ancora più sfrenato. Sono rimasti in attesa sulla soglia dello spazio. Un'orda barbarica con il segreto dell'immortalità alla propria portata, ansiosi di giocare un'ultima partita con la loro stessa psicopatologia. La prospettiva che questa epidemia virulenta si diffondesse nell'universo deve aver indotto i computer del pianeta a lanciare l'altolà. Ma resta il mistero di dove siano spariti tutti gli abitanti. Perché se sono stati fisicamente eliminati in un atto di igiene planetaria, non c'è traccia dei miliardi di cadaveri o della vasta necropoli che sarebbe stata necessaria per seppellirli. Una possibile spiegazione ci si presenta proprio ora, mentre ci prepariamo a tornare alla nostra stella madre. Spinti dal bisogno di una replica ancor più perfetta delle scene sanguinose che tanto li entusiasmavano, gli abitanti di questo mondo infelice avevano inventato una versione più avanzata e apparentemente interiorizzata dei loro schemi televisivi. Una replica virtuale della realtà in cui mettere in atto le loro fantasie più deviate. Queste simulazioni tridimensionali sono state generate dai loro computer e avevano raggiunto un tale stadio di sviluppo negli ultimi anni del millennio che l'imitazione della realtà era divenuta più convincente dell'originale. È possibile che fosse addirittura divenuta la nuova realtà, nella misura in cui le loro città e strade, i loro concittadini, in ultima analisi, loro stessi, sembravano mere illusioni al confronto del parco dei divertimenti generato elettronicamente nel quale preferivano restare a giocare. Lì potevano assumere qualunque identità, creare e realizzare qualsiasi desiderio ed esplorare i sogni più perversi. Ma a un certo punto, con l'affacciarsi del nuovo millennio, questo pianeta, avendo prima accolto i popoli in questa caverna delle illusioni, abbiano preso una decisione disperata